2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata delle 15 e 16 di febbraio 2014. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche Facebook o Twitter. Andate nel motore di ricerca di questi social network e cercate 2024 oppure Enrico Pagliarini. Dunque, inizio questa settimana parlando di GPS. Allora, il creatore, colui che certo non ha inventato il sistema GPS, ma viene ritenuto l'architetto del sistema di navigazione satellitare americano, il colonnello Bradford Parkinson, ha detto recentemente ad un evento che si è tenuto in Gran Bretagna, che è stato ripreso dal Financial Times, ha detto che i segnali del sistema GPS sono troppo deboli e soprattutto parlava di debolezza relativa alla sicurezza, sono poco sicuri e possono essere facilmente vulnerabili ed esposti a interferenze naturalmente create ad hoc per disturbare oppure addirittura cambiare le coordinate del segnale GPS. Allora, è noto che soprattutto la parte dedicata ai consumatori, ai servizi generali del servizio GPS non godono di una sicurezza molto elevata, mentre il segnale che viene riservato ai militari ha sufficienti garanzie di sicurezza, è molto più robusto. Però fino adesso non è mai successo nulla di particolarmente grave, se non un caso segnalato lo scorso anno, cioè una serie di casi segnalati lo scorso anno in Corea del Sud. L'accusa principale è stata rivolta alla Corea del Nord, che avrebbe utilizzato sistemi non tecnologicamente avanzatissimi per disturbare i segnali GPS e avere in quel modo creato problemi ad esempio all'aeroporto principale di Seul. Diciamo però, al di là di questo caso non è mai successo nulla di grave, ma se noi pensiamo a tutto quello che funziona oramai grazie al GPS, il GPS dà anche il segnale orario a molti servizi che vengono utilizzati sulla terra, dalle reti di telefonia mobile a molti altri servizi, bene, possiamo pensare a quello che potrebbe succedere se qualcuno riuscisse a o creare un segnale diverso, falso, oppure addirittura disturbare il segnale del GPS. Questo, che non so se chiamarlo allarme, sono sicuro che tra gli addetti ai lavori questa è una cosa che è conosciuta. Comunque, quello che ha lanciato il colonnello Parkinson riguarda anche il futuro sistema Galileo, il sistema europeo, perché naturalmente questo sistema è stato progettato molti anni fa, quando i problemi del cybercrime, della sicurezza digitale, erano molto più contenuti rispetto ad oggi. Quindi il colonnello Parkinson, ma anche molti altri esperti, dicono: beh, bisognerà cominciare a pensare a sistemi per irrobustire, per rendere molto più forte questo segnale e proteggerlo contro possibili attacchi di cybercrime. Abbiamo altre notizie della settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda Viber, una delle applicazioni più popolari al mondo per messaggistica istantanea e telefonia via internet, che è stata acquistata dalla giapponese Rakuten. Non è nota in Occidente. Comunque Rakuten è un gigante, il numero uno dell'e-commerce giapponese, è proprietaria tra le altre cose anche di Kobo, una piattaforma piuttosto nota per i libri digitali. Allora, Rakuten ha pagato 900 milioni di dollari per Viber. Questa acquisizione porterà all'azienda 300 milioni di nuovi utenti, che si aggiungono agli attuali 200 milioni. Digital News. Mozilla ha annunciato una novità interessante in una delle future versioni di Firefox, il popolare browser per navigare in internet, tra l'altro il nostro preferito, lo diciamo spesso. Allora, verranno visualizzati siti sponsorizzati all'interno del browser. L'obiettivo è mostrare all'interno del navigatore contenuti rilevanti sulla base dei siti più visitati. Allora, ci sono effettivamente molti momenti nei quali sarebbe possibile vedere pubblicità, se ci pensate, come quando, ad esempio, si apre una tab nuova. In quel momento vengono visualizzati, a seconda delle impostazioni, i siti più visitati, beh, in quel momento potrebbe anche esserci pubblicità. Il governo spagnolo ha proposto, all'interno di una legge che si occupa del diritto d'autore, una norma che obbligherebbe i motori di ricerca a pagare una quota ai produttori di contenuti e di notizie per il loro uso. Ad esempio Google, con il servizio Google News, dovrebbe pagare una percentuale ai siti da cui vengono raccolte le notizie. È vero che i siti traggono vantaggio e potenziale traffico dal fatto che Google mette le notizie in Google News, ma i motori di ricerca con questi servizi generano anche grandi quantità di pubblicità, quindi la ratio di questa norma, che è stata adottata anche in modo simile in alcuni altri stati europei, dice: beh, visto che tu sfrutti questi contenuti per generare una pagina ricca di contenuti sul tuo motore di ricerca, per farci poi pubblicità dovresti pagare una quota. Vedremo se questa legge verrà approvata. Digital News. Secondo una ricerca di UPS, la Pulse of the Online Shopper, quindi il polso di chi compra online, il 58% di chi compra online in Italia e che usa uno smartphone, e il 75% di quelli che usano un tablet fa acquisti online sui propri dispositivi mobili. Quindi il 58% di chi ha uno smartphone e il 75% di chi ha un tablet fa acquisti online. Il dato è sopra la media europea. Il 76% degli intervistati in Europa si dice soddisfatto della propria esperienza di shopping online, e sempre in Europa i consumatori accettano di aspettare, pensate, anche 4 giorni per ricevere una spedizione nazionale e addirittura 10 giorni per quelle extraeuropee. Le principali banche americane, le più importanti associazioni della grande distribuzione organizzata, sempre americana, hanno deciso di collaborare per migliorare i sistemi di protezione contro il cybercrime. Anche la SEC, l'autorità di controllo dei mercati finanziari, ha detto che il prossimo mese convocherà tutte le parti interessate per valutare cosa è necessario e possibile fare contro gli attacchi digitali sempre più frequenti. In effetti il problema negli Stati Uniti è molto grave, perché ci sono stati recentemente alcuni attacchi piuttosto grandi, dove sono state rubate grandi quantità di dati degli utenti di alcuni grandi retailer. Quindi il problema è effettivamente molto serio. La Jawbone, nota per auricolari Bluetooth, casse wireless e un braccialetto per tracciare, per misurare l'attività fisica, sta per raccogliere capitali freschi per 250 milioni di dollari, che porterebbero il valore della società a 3,3 miliardi. Jawbone aveva già raccolto 370 milioni di dollari. Naturalmente dietro a queste operazioni c'è anche un'attività, una sorta di attività marketing degli investitori, che così facendo dicono: guardate quanto vale questa società, e poi nel momento in cui questa società va in borsa raccoglie un sacco di capitali. Non sempre questa valutazione che viene fatta da chi investe corrisponde poi alla valutazione reale. Vediamo appunto poi dalle quotazioni di borsa che tutto poi si risistema con il tempo. Adesso cambiamo argomento, parliamo di turismo. Non solo perché è in corso a Milano, o meglio, si conclude in queste ore, potremmo dire così, la BIT, che storicamente è il più importante appuntamento fieristico nazionale dedicato al turismo, ma sicuramente perché questo è un settore estremamente importante, molto importante per la nostra economia. Quante volte avrete sentito dire il turismo è come il nostro petrolio? Beh, sicuramente questa è una considerazione vera per il nostro paese, ma quante volte avete sentito dire che non siamo capaci di valorizzare questa risorsa? Beh, anche in questo caso la tecnologia ha cambiato, direi in modo rilevante, il settore turistico negli ultimi anni, ma come dicono molti esperti molto potrebbe cambiare nei prossimi anni. Allora vogliamo cercare oggi di dare anche qualche spunto agli operatori del turismo e anche qualche speranza al nostro paese, perché effettivamente sfruttando la tecnologia potremmo effettivamente valorizzare molto di più questa risorsa e crescere nelle classifiche internazionali che raccontano come vanno i flussi del turismo. Saluto Stefano Ceci, che è il presidente dell'Associazione Startup del Turismo. Benvenuto a 2024. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Tu Stefano sei, oltre che presidente di questa associazione che raggruppa alcune startup che sì, si occupano di turismo, anche un imprenditore del mondo del turismo, ma sempre nel mondo startup. Spiegaci meglio che cosa fai. Sì, io sono il fondatore di GH, che è il primo e purtroppo in questo momento ancora l'unico incubatore di startup digitali nel settore turistico. Mi occupo di questa attività da qualche anno e quindi insomma sono in campo su questo versante da un po' di anni. Senti, quando parliamo di tecnologia e di turismo, sicuramente viene alla mente o vengono alla mente le piattaforme di prenotazione online che negli ultimi anni sono diventate sempre più popolari, oppure vengono alla mente i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree che sicuramente negli ultimi anni sono diventati sempre più popolari, in modo particolare se pensiamo alla crescita vertiginosa delle start-up. Beh, oggi il 100% delle prenotazioni avviene tramite e grazie ad internet. Potremmo dire che non esisterebbero le low cost se non ci fossero i sistemi di prenotazione internet. Certo. Partiamo proprio da questo punto, cioè i sistemi di prenotazione. Sappiamo che internet ha disintermediato, come si dice, o comunque creato degli altri soggetti che intermediano. Sì, no, internet ha creato altri soggetti in realtà di intermediazione, perché parliamo un po' di numeri, così cerchiamo di inquadrare che cos'è questo mercato. Innanzitutto ormai oltre l'80% delle prenotazioni, quasi l'80% delle prenotazioni vengono fatte online, quindi diciamo che il mercato si è spostato sul digitale e il turismo è fra i primi segmenti, diciamo fra i primi settori al mondo di transazioni online. In Italia stiamo parlando di 5 miliardi di euro all'anno di fatturato online e anche in Italia, ancorché l'Italia non è proprio esattamente, diciamo così, in cima alle classifiche, anche in Italia stiamo parlando, questi 5 miliardi equivalgono più o meno al 45% del fatturato, cioè il 45% del fatturato online è turismo e questa cosa vale 5 miliardi di euro all'anno. C'è un problemino però, tu prima dicevi no, questa cosa, il turismo e il petrolio dell'Italia, sì, purtroppo lo estraggono altri però, nel senso che quasi 2 miliardi e mezzo di questi 5 di fatturato online vengono fatti in Italia dalle online travel agency, cioè dalle OLTA, quindi da Booking, da Venner, da Expedia, sono loro che estraggono il nostro petrolio e si portano via ogni anno circa 700 milioni più o meno di provvigioni che vanno e che vengono fatturate ai nostri albergatori piuttosto che ai turisti che stanno in Italia all'estero. E direi che insomma non è un dato proprio straordinario. Esatto, ecco. Quindi diciamo che in questa fase la tecnologia l'hanno sfruttata altri e noi siamo rimasti incastrati. Quindi facciamo, giusto per capire, quando io prenotavo un albergo fino a qualche anno fa, o ancora oggi se chiamo direttamente l'albergo, se uso la piattaforma internet di quell'albergo, il 100% dei soldi che io pago all'albergatore finiscono all'albergo. Quando usi Booking, esatto, usi Expedia, usi TripAdvisor, non so, qualsiasi, adesso anche lì bisogna fare un po' una differenza, ma insomma una differenza comunque veramente minima, esatto. Comunque diciamo, quando usi queste piattaforme di prenotazione stai lasciando una provvigione a loro e questa provvigione, diciamo così, viene grattata dall'incasso dell'albergo e con l'aria che tira questa faccenda sta provocando anche nel sistema alberghiero e dell'ospitalità italiana, quindi non solo alberghi ma anche B&B, agriturismi, insomma, sta provocando difficoltà economiche di non poco conto, cioè se alla crisi economica aggiungi questo 20-25% che dei loro fatturati, che perdono sui loro fatturati per dover pagare sistemi di prenotazione, capisci bene che quando sono alla fine dell'anno e tirano il cassetto, certo, dentro rimane poco, a volte sì, sì, molto molto poco. 20-30% non è mica poco. È una cifra, sì, sì, adesso sai, è un po', dipende anche qua, adesso prendiamo questo dato un po' così perché ci sono situazioni dove questo dato è 15%, situazioni dove arriva al 30%, quindi insomma non è proprio Vabbè, comunque così, una buona media, giusto per far capire quanto valore finisce all'estero. La cosa mi viene in mente Renato Soru quando diceva: non capisco perché per cercare un ristorante a Cagliari devo interrogare un server che sta in California. Qui succede la stessa cosa, perché magari io sono a Rimini, visto che queste piattaforme oramai sono diventate molto forti e hanno ti possono offrire un panorama anche su un luogo in Italia molto vasto, si è spesso costretti a usarlo. Io faccio l'imprenditore, quindi devo riconoscere, riconosco il fatto che queste piattaforme hanno saputo lavorare benissimo e stanno offrendo in questo momento un servizio molto molto efficiente. Il problema non sono loro, il problema siamo noi. Esatto, tutto il sistema nazionale. Ne riparliamo e riprendiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Stiamo parlando di tecnologia e di turismo. Anche in questo caso, come succede, come è successo in altri casi, non siamo stati in grado di sfruttare, utilizzare la tecnologia appieno per favorire la nostra competitività turistica. Siamo un paese, ce lo diciamo sempre, pieno di bellezze, si mangia benissimo, si sta molto bene nel nostro paese, oltre che ad esserci, come si dice spesso, i tre quarti delle opere d'arte del mondo. Bene, tutto ciò non riusciamo già a metterlo a rendita con, diciamo, i metodi tradizionali, ma sicuramente la tecnologia darebbe una spinta incredibile a tutto ciò. Beh, fino adesso non siamo riusciti a combinare granché. Stiamo parlando con Stefano Ceci, che oltre che un imprenditore del settore, presidente dell'associazione Startup del Turismo, perché fortunatamente, questo è un dato di cui magari parleremo tra poco, c'è un certo brio all'interno del settore. Ci sono alcune start-up, alcuni che ci stanno provando e dicono: beh, la tecnologia è oramai a disposizione di tutti, basta saperla utilizzare. Ceci, possiamo ripartire da alcuni numeri interessanti, perché stiamo parlando di un settore che rappresenta l'11-12% del prodotto interno lordo, con milioni di occupati in Italia, quindi un settore molto importante economicamente per il nostro paese. Di fronte a questa realtà, i dati che vengono fuori sono incredibili, cioè siamo al 26esimo posto in competitività del settore turistico a livello mondiale, cioè non è possibile, no? Che siamo rimasti, cioè siamo dietro la Corea. Certo, però, certo, ecco. Naturalmente non si può risolvere, non si possono risolvere tutti i problemi con internet, ma direi che però una buona parte dei problemi potrebbero essere risolti. Allora, a questo punto la domanda è: che cosa potremmo fare, che cosa potrebbe fare il sistema paese? E quando faccio riferimento al sistema paese, parlo soprattutto di quello che possono fare gli imprenditori, perché abbiamo visto che lo Stato ha dimostrato una incapacità incredibile. Allora, a questo punto direi che, visto che siamo anche tra l'altro in una fase di passaggio di governi, direi che a questo punto lo Stato, forse dal turismo, è meglio che ne stia fuori e forse agevoli solo gli operatori del turismo. Che cosa si potrebbe fare? Cioè, è possibile addirittura riuscire a creare una piattaforma? Poi magari, guarda, possiamo parlare anche di altre cose. Noi ci stiamo provando, siamo in campo con un progetto molto innovativo, con un portale che metteremo online a giugno e che sperimenteremo a iniziare dal Trentino, che è in questo momento il territorio italiano più dinamico, che ha saputo scommettere un anno fa, anzi un po' di più, insomma, sulla ricerca, l'innovazione digitale del settore turistico. E partiamo da lì con un progetto molto importante che tenteremo di scalfire questa leadership dei portali di prenotazione, puntando su un dato. Vi dico qual è il dato: è un dato molto interessante, perché negli ultimi anni mediamente 6 6-8% cresce la vendita diretta, cioè ogni anno crescono i turisti che online cercano di acquistare direttamente dall'albergo, cioè quindi direttamente dalla struttura turistica. Perché si risparmia? Perché si risparmia? Ecco, questa è un'altra bella domanda. Perché si risparmia? Qua c'è un tema incredibile che è la questione del cosiddetto parity rate. Adesso non vorrei entrare in un tecnicismo, ma non so se lo sai, ma queste OLTA, Online Travel Agency, impongono agli albergatori quel cosiddetto parity rate. E cosa vuol dire? Cioè, queste Booking dice a un albergatore: guarda che sul tuo sito web non può esserci un prezzo inferiore rispetto a quello che io, che dai a me. Sì. Ecco. Sì. Sul parity rate c'è mezzo mondo che si sta scatenando, cioè i francesi sono in campo col governo loro a tentare di demolire questa assurda regola oligopolistica del parity rate, che non ha senso. Noi italiani come sempre dormiamo, perché le nostre istituzioni dormono da tempo su questo, però come dire, questa questione del parity rate è messa in discussione ormai a livello globale, e quindi in realtà sempre di più sui canali diretti è possibile acquistare, sì, ti risponderei, a dei prezzi anche inferiori. Comunque c'è il dato più interessante è questo, che i viaggiatori hanno un piacere di avere a cominciare dall'online, di avere un rapporto diretto con chi gli fornirà la vacanza o il pernottamento, no? Cioè è un atteggiamento di cambiamento di comportamento dal punto di vista dei turisti o dei viaggiatori. E noi stiamo lavorando su questo dato e stiamo realizzando una soluzione che permetterà al turista di comprare camere e servizi direttamente da chi li fornisce, senza passare, diciamo, dalle piattaforme. E ci proveremo in maniera seria. C'è un team di 15 persone che ci sta lavorando, un team internazionale, investimenti importanti, quindi ci stiamo provando, e penso che ci stiano provando anche altri, insomma, quindi è importante che in questo caso la percentuale che prendete speriamo che non sia del 20-30%. No, nessuna percentuale. Il modello di business è diverso e lavoriamo un po' come stanno lavorando Google Hotel Finder piuttosto che Trip Connect, cioè stiamo lavorando su non su percentuali, su provvigioni, ma su visibilità, vogliamo chiamarla pubblicità, quello che tecnicamente si chiama pay per click, no? Cioè uno strumento di totale disintermediazione da questo punto di vista. Sì. E tu mi hai chiesto una cosa importante, però a cui vorrei dare una risposta, perché è molto importante. In questo momento in Italia meno del 30% delle strutture turistiche ricettive hanno un canale di vendita diretta digitale, cioè hanno un booking diretto, meno del 30%. Quindi c'è il digital divide degli albergatori che non sono su internet. È pazzesco. Tu guarda, sempre quell'indagine che dicevo prima, l'Italia è al 101esimo posto, a proposito di 101, deve essere un numero un po' strano questo, 101esimo posto dopo lo Zimbabwe per l'uso di tecnologie nel comparto turistico, 101esimo posto dopo lo Zimbabwe, quindi è di più di un digital divide, non so come dire, è veramente un grande problema. Quindi mi stai dicendo che quando comunque oggi uno va su queste piattaforme di prenotazione, sì, il panorama che gli si presenta davanti di alberghi è comunque limitato, perché molti non ci sono proprio. Allora, le piattaforme hanno di fatto sostituito questi canali di vendita diretti agli alberghi, no? Cioè, essendo che questi canali di vendita non ci sono, loro cosa hanno fatto? Hanno offerto un canale di vendita e gli alberghi e le strutture ricettive no, usano quelli e non ne hanno uno proprio. Ah, non ne hanno uno proprio, ho capito. Sarebbe come se tu avessi appaltato la reception del tuo albergo, no? L'hai appaltata a qualcun altro. Sì, gestisco io il mio albergo, però la reception, aspetta che trovo uno che me la gestisce lui, no? Ecco, sta funzionando un po' così, che è ovviamente una situazione anomala. Il pubblico dovrebbe smettere di sprecare denaro, come stanno facendo le regioni da anni, e lo Stato lasciamolo stare, che tanto non sta facendo nulla, dovrebbero smettere di sprecare denaro su realizzazioni di portali, portalini, portaletti totalmente inutili, e lavorare a portare gli imprenditori online, facilitare la digitalizzazione del settore turistico, aiutare gli operatori a lavorare ad avere un canale di vendita diretto, a sapere come si gestisce questo canale, a sapere come si usano i social media. E questo è il lavoro che il pubblico deve fare, che non sta facendo, continuando a sprecare risorse da altre parti. È veramente insostenibile questa situazione, e il turismo tutto ne sta pagando. Sì, sì. Alfabetizzazione digitale sarebbe. Alfabetizzazione digitale, così, corretto. Certo. Corretto. Se noi apriamo, diciamo, lo sguardo oltre a queste piattaforme, naturalmente abbiamo iniziato da questo perché mi sembra che sia molto interessante il dato che abbiamo citato all'inizio, cioè 700 milioni, e probabilmente sono anche un po' di più, se ne vanno. Guarda, cresce il 13% all'anno, ecco, questo dato. Penso, esatto. E quindi questo è un valore che noi, il sistema turistico italiano, il sistema degli alberghi italiani, così sta lasciando. Io, se fossi un albergatore, mi farei anche qualche domanda sulle associazioni che rappresentano la categoria, che cosa hanno fatto, che cosa non hanno fatto in questi anni. Comunque, non entriamo in questo capitolo. Se noi ampliamo lo sguardo, visto che mi sembra di capire che comunque c'è fermento nel mondo delle start-up, nel settore turistico, che cos'altro si sta facendo, quali altre possibilità ci sono? Guarda, hai ragione, c'è fermento. Io presiedo l'Associazione Nazionale delle Startup del Turismo e della Cultura, a cui hanno aderito in pochissimi mesi una quarantina di startup digitali nel nostro paese. Ti posso dire che gli startup ci sono bravi, c'è un bel fermento. Però non faranno tutte le piattaforme di prenotazione. Non ho capito. No, dico, non faranno tutte le piattaforme di prenotazione. No, anzi, ci sono molte soluzioni che sono dedicate, cosiddette soluzioni B2B, cioè che sono dedicate agli operatori per realizzare o gestire, che ne so, delle app, piuttosto che soluzioni molto interessanti sulla gestione dei trasporti pubblici, sono sui social. Diverse iniziative, e questa vivacità è molto importante. La questione è, in Italia, riuscire a costruire quell'ecosistema tale per cui le migliori start-up, quelli che hanno veramente servizi e soluzioni che alla prova del mercato hanno riscontro, poter consentire a loro di crescere. E questa è la difficoltà per le start-up del turismo, e non solo, credo, in Italia. Delle start-up in generale, direi. Certo. Sì, cioè abbiamo un sistema che consente di poter iniziare. Non, in questo momento non esistono ancora le condizioni per, come si dice tecnicamente, scalare, per crescere, no? Perché non c'è i venture capital che lavorano in Italia, sono veramente pochissimi, e perché non c'è capitale di rischio, e le start-up per loro definizione sono aziende ad alto tasso di rischio, no? Perché sono innovative e perché lavorano sulla frontiera, diciamo così, del cambiamento, dell'innovazione, e quindi non è facile. Certo, certo. Tuttavia, tu mi stai dicendo, questo comunque è un dato interessante, che A, c'è spazio, cioè ci sarebbe business, B, c'è comunque un fermento, cioè ci sono molti che ci stanno provando. Sì, è così, c'è spazio e c'è fermento, e credo che anche gli operatori del turismo inizino a capire di quanto hanno bisogno, dal punto di vista economico proprio, per il loro business, di quanto hanno bisogno di superare queste difficoltà nell'usare il web e il digitale. Credo che siamo all'inizio di una storia interessante. Servirebbe a questo punto che ognuno, facendo il proprio lavoro, cercasse di fare il meglio possibile, questo è normale, e che quel denaro pubblico che è stato messo, che esiste per incentivare e sostenere lo sviluppo turistico, culturale, territoriale dell'Italia, fosse utilizzato in maniera intelligente finalmente, e la si smettesse, insomma, di sprecarlo in iniziative che non hanno nessun senso. Ecco. Bene, io ringrazio Stefano Ceci per essere stato con noi. Beh, allora, in bocca al lupo a tutte le start-up dell'associazione, e non solo grazie. Quelle dell'associazione. Ti ringrazio, grazie davvero molto. A presto. A presto. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, adesso ci fermiamo per una breve pausa, riprendiamo tra poco. Tra poco, anche nel prossimo approfondimento, parleremo di come la tecnologia può rendere più efficiente un sistema. Parleremo di autotrasporti. Abbiamo anche alcuni dati, alcuni numeri che riguardano la telefonia mobile usciti proprio questa settimana, tra poco. 2024. Abbiamo nuovi dati che riguardano la telefonia mobile, giusto a poco più di una settimana, una decina di giorni dall'appuntamento con il Mobile World Congress che si aprirà domenica, ufficialmente lunedì 24, ma già da domenica 23 ci saranno degli appuntamenti e delle conferenze stampa a Barcellona, quindi si riconferma Barcellona Mobile Capital, la capitale mondiale della telefonia mobile, la prossima settimana. Naturalmente noi saremo là per parlare con i protagonisti, per raccogliere tutto quello che verrà o annunciato, comunque anche tutte le sensazioni degli addetti ai lavori, degli esperti, eccetera eccetera. Allora, a proposito di dati, Gartner questa settimana ha pubblicato la trimestrale ricerca che appunto ogni tre mesi viene diffusa in tutto il mondo, che fa il punto della situazione sulla vendita di terminali mobili, sui sistemi operativi eccetera eccetera. Allora, anche Gartner conferma, lo aveva già fatto IDC e altre società di ricerca, conferma che lo scorso anno la percentuale di smartphone vendute nel mondo ha superato i cosiddetti feature phone, quindi i telefonini classici. Siamo arrivati al 57,6% nel quarto trimestre del 2013, ma comunque in tutto l'anno il numero totale di smartphone, che è stato di 968 milioni, ha superato la metà, perché in totale sono stati venduti circa 1 miliardo e 800 milioni di telefonini in generale, quasi 1 miliardo e 800, anzi poco più di 1 miliardo e 800 milioni. Comunque, insomma, i numeri precisi sono importanti, ma l'importante è capire quali sono le dimensioni, le percentuali, le crescite, eccetera, eccetera. Allora, siamo in una situazione in cui continuano a vendersi sempre più smartphone. Lo scorso anno la crescita di smartphone è stata del 42,3% rispetto all'anno precedente. Per il 2014 si confermano percentuali analoghe. Secondo Gartner, uno dei motivi di traino degli smartphone per quest'anno sarà un prezzo medio sempre più basso, soprattutto nella fascia low cost. Per quanto riguarda i produttori, allora, lo scorso anno Samsung è stato il principale produttore sia di telefonini classici tradizionali sia di smartphone. Nel segmento smartphone ha il 31% del mercato, nel segmento più generale della telefonia è al 24,6%. Il secondo produttore di telefonini normali, chiamiamoli così, è Nokia, che è ancora un 14% di quota mondiale, poi c'è Apple, LG, eccetera, eccetera. Ma naturalmente quello che tutti guardano è il segmento dei soli smartphone. Quindi qui, come dicevo, Samsung è al 31%, ha venduto quasi 300 milioni di pezzi, Apple ne ha venduti 150 milioni e siamo al 15,6%. Poi sotto, al 4,8% e poi al 4,5%, ci sono Huawei, la cinese Huawei, LG e Lenovo, quindi i cinesi stanno crescendo molto forte. Il 39% del mercato è rappresentato da altri produttori, quasi tutti, a parte una piccola percentuale di Windows Phone, quasi tutti hanno Android. Perché se guardiamo i sistemi operativi, anche Gartner tutto sommato conferma quello che è stato previsto dalle altre società di ricerche. Android è stato venduto con una percentuale del 78,4% nel corso del 2013, iOS di Apple 15,6, Microsoft al 3,2, BlackBerry è sceso all'1,9%. Gli altri sistemi operativi, in questo caso c'è ben poca frammentazione, perché rappresentano appena l'1%, lo 0,9%, quindi di fatto non esistono. Allora, adesso parliamo di un argomento sicuramente molto conosciuto dagli autotrasportatori, conosciuto da tempo dagli autotrasportatori, ma che è un buon esempio di come la tecnologia può rendere più efficiente un'attività. Nel caso specifico parliamo di un'attività di trasporto delle merci, ma se applichiamo questo principio può valere per molti altri settori. Parliamo della cosiddetta o delle cosiddette borse carichi. Esistono molti servizi di questo genere, molte piattaforme, il cui obiettivo è ottimizzare i percorsi di un camion e soprattutto, e questa vorrei che fosse la parola chiave, migliorare l'efficienza. Allora, saluto Manuel Frontera della cooperativa Fai Service, benvenuto a 2024. Buongiorno Enrico e buongiorno a tutti. Partiamo proprio dal concetto generale, parliamo di una cosa che il mondo dell'autotrasporto conosce da molto tempo, probabilmente molti ascoltatori invece non lo conoscono, ma sicuramente che grazie alla tecnologia, all'evoluzione tecnologica, la disponibilità di connettività internet che oramai permette a un autotrasportatore di collegarsi anche in mobilità attraverso lo smartphone o un tablet da qualsiasi luogo, è sicuramente, non so se dire esplosa negli ultimi anni, negli ultimi tempi, ma sicuramente ha avuto un'accelerazione. Che cos'è la borsa carichi? Beh, allora, la borsa carichi diciamo che è un contenitore che mette insieme la domanda e l'offerta e quindi permette di avvicinare quelli che sono i vari player del settore dei trasporti e della logistica per fare in modo di ottenere maggiore efficienza. Ovviamente il trasportatore è sempre in movimento e quindi ha come vocazione personale quella di essere sempre in giro con il proprio mezzo e per cui ha bisogno di essere avvicinato a tutte quelle che sono le opportunità di ottimizzazione dei propri transiti e quindi per evitare di effettuare dei viaggi a vuoto e quindi ottimizzare i tempi di consegna e la gestione delle merci, le borse carichi mettono appunto in condivisione chi offre un carico e chi invece è disponibile per effettuarlo in modo da migliorare quello che è il flusso di gestione. Internet ha cambiato tutto e ha sicuramente accelerato questo fenomeno. Sì, assolutamente sì, perché ha accelerato il fenomeno perché permette di avere una connettività 24 ore su 24 e di avere delle risposte in tempo reale. E soprattutto quello che l'utente normale vede per quello che è la sua vita quotidiana viene ancora di più accelerato per un trasportatore che essendo per natura diciamo un nomade per cui è sempre in giro con il proprio mezzo vede nella gestione internet un valore aggiunto in più proprio perché in ogni momento sul proprio mezzo attraverso uno smartphone o anche soltanto un telefono cellulare riesce a connettersi a tutte quelle che sono le opportunità della rete e quindi ovviamente anche delle borse cariche. Uno dei problemi, adesso non so se è il principale, che in molti casi gli autotrasportatori hanno è che magari fanno un carico dal punto A al punto B e poi devono tornare vuoti, questo è forse il problema che deve essere risolto. Esatto, questo è il problema principale che crea ovviamente inefficienza per l'azienda di trasporto, ma poi a catena anche su tutto il resto del contesto economico, perché comunque avere un'inefficienza sul trasportatore implica poi dei costi aggiuntivi che vengono poi riversati sulla merce stessa. Per cui fare in modo che il trasportatore abbia sempre il proprio veicolo carico in tutte le tratte che effettua è ovviamente un'opportunità sia per il trasportatore ma sia poi per tutto l'ambito del mercato. Saluto Tommaso Magistrali, che è il responsabile per il mercato italiano di Timocom, che è proprio una piattaforma di borsa carichi. Benvenuto a 2024, Magistrali. Grazie, buongiorno Enrico e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Magistrali, voi siete un'azienda che opera a livello europeo, quindi una piattaforma che opera a livello europeo. Queste tecnologie, queste opportunità sono quanto diffuse in altri paesi rispetto all'Italia? Ma diciamo che sono ormai diffuse più o meno in modo omogeneo in tutta, noi parliamo di Europa perché ovviamente parliamo di trasporto su strada, per forza di cose dobbiamo parlare di Europa. Il nostro mercato va, diciamo così, dal Portogallo alla Russia e dalla Norvegia a Malta, quindi abbiamo una clientela molto diffusa, ovviamente qualche mercato è più grosso di altri. L'Italia da questo punto di vista è uno dei nostri più grandi, essendo Timocom nata in Germania, il nostro principale interlocutore è diciamo, l'autotrasporto e la spedizione tedesca, ma la crescita che stiamo avendo anche nel mercato italiano è più importante, quindi contiamo 1200 aziende di autotrasporto e spedizione italiane che lavorano in piattaforme online. Sì. Allora, sempre con Magistrali, volevo che ci facesse un esempio di come funziona questo sistema, quindi mettiamoci nei panni di un autotrasportatore che ha questa esigenza, cioè si accorge, insomma, sa di far trasporti da un punto A ad un punto B e spesso magari di tornare senza merce, quindi con il camion vuoto. Come funziona il vostro sistema, che poi immagino sia un principio riprodotto da altri sistemi, da altre piattaforme magistrali? Esatto, sì, diciamo il principio è bene o male lo stesso un po' anche presso la nostra concorrenza. Da noi funziona così: un autotrasportatore ha di fatto due opportunità che può sfruttare entrambe contemporaneamente, quindi generalmente sa già con qualche giorno d'anticipo dove sarà il suo punto di scarico, e quindi lui si può permettere già con qualche giorno di anticipo di andare ad inserire nella nostra piattaforma online, che si chiama Track and Cargo, la disponibilità del proprio mezzo. Quindi ad esempio io ho un carico di patate, facciamo l'esempio classico, che devo trasportare da Düsseldorf a Milano, per domani saprò già che domani a una certa ora ho il mio mezzo libero a Milano che deve rientrare verso Düsseldorf, quindi io posso inserire l'offerta del mio camion, ma contemporaneamente posso anche già mettermi attivamente a cercare un carico che faccia per me, quindi posso anche andare a cercare nell'ambito delle offerte di carico se trovo un carico disponibile per rientrare sulla Germania in zona Düsseldorf piuttosto che Nord Reno-Vestfalia. Quindi integrando queste due possibilità poi posso o essere contattato da un offerente di carico che ha appunto necessità di cercare un veicolo per la sua merce, oppure posso io attivamente andare a contattare uno spedizioniere o un'azienda appunto che ha un carico che da Milano deve andare su verso la Germania. Voi che cosa ci guadagnate? Cioè come guadagnate? Perché che ci guadagnate sicuro. Certo, ci guadagniamo perché anche noi non facciamo, diciamo, beneficenza la fanno in pochi, sì. Noi ne facciamo anche un po', però per il servizio ci guadagniamo. Ovviamente noi guadagniamo non sul volume né sul, diciamo, sul numero di trasporti che un trasportatore può aggiudicarsi tramite il nostro servizio, né sul volume di merce che trasporta, né guadagniamo sulla la fornitura del servizio. Quindi i nostri clienti pagano una flat rate, una comoda flat rate mensile, e possono poi utilizzare senza nessun limite né di tempo né di quantità di offerte visionate e inserite i nostri sistemi, che la borsa di carico è una delle nostre piattaforme, poi l'offerta di Timo, come anche si allarga anche ad altri servizi che appunto sono compresi nella. Sì, nella, quindi è un abbonamento mensile. Esattamente. Adesso ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco. 2024. Disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Stiamo parlando delle borse carichi, una di fatto tecnologia, perché non potrebbero esistere o comunque non potrebbero essere così efficienti queste borse che mettono in collegamento chi offre un trasporto e con chi deve trasportare merce da un punto all'altro, soprattutto in Europa, per rendere più efficiente il trasporto. Non potrebbero essere così efficienti senza la tecnologia, ma anche in questo caso bisogna proteggersi contro il furto d'identità, quindi c'è sì una protezione digitale, chiamiamola così, ma anche tutta una serie di protezioni che devono essere attuate per evitare spiacevoli inconvenienti. Manuel Frontera, che cosa si sta facendo e come si fa per rendere sicuro questo sistema? Beh, sicuramente la sicurezza è fondamentale. In più si aggiunge la questione che, come tutti i servizi online, c'è un problema anche di identità, nel senso che quotidianamente sentiamo i problemi che ci possono essere di soggetti che millantano di essere parte di una società e quindi rubano l'identità di terzi per poi fare delle attività illecite. E quindi la garanzia che bisogna ricercare in termini di affidabilità della borsa carichi è proprio in questi termini, cioè quelli che sono le ricerche, quelli che vengono anche effettuati come controlli, che l'identità degli aderenti alla borsa carichi sia corretta. E questo è molto importante perché, come diceva prima Tommaso, di concorrenti ce ne sono tantissimi e di borse carichi se ne possono trovare tantissime, però di borse carichi che realmente facciano un lavoro puntiglioso di selezione di quelli che sono gli account attivati e quindi gli utenti che sono abilitati, purtroppo ce ne sono poche, per cui bisogna stare molto attenti a questo aspetto perché è la parte fondamentale. Cioè, pensate di affidare un carico a un'azienda che non è stata analizzata in maniera corretta e con il rischio che magari ci sia qualcuno alle spalle che non è diciamo con le migliori intenzioni, è uno dei rischi principali che bisogna combattere assolutamente. Questo è il motivo per cui in prima istanza bisogna selezionare la borsa carichi. E in seconda istanza Fiservice proprio si fa portatrice di questa attività di certificazione di quella che è la professionalità del trasportatore che c'è alle spalle. Anche voi avete una piattaforma che fa questa cosa che si chiama trackingmarket.it. Come l'avete risolto il problema dell'identità e della certificazione, cioè che quando uno offre un carico sia veramente un trasportatore, cioè un'azienda che ha bisogno del carico, oppure non sia un altro che ha intenzioni malevole? Beh, noi innanzitutto siamo una cooperativa, quindi i trasportatori materialmente sono associati della cooperativa, per cui abbiamo un rapporto che va al di là della singola attività commerciale, ma proprio ci lega a doppio filo con quello che è il trasportatore stesso. E non solo, noi oltre ad avere questo rapporto con i soci, appunto abbiamo istituito questa professionalità garantita che diciamo in prima istanza potrebbe essere visto come una certificazione, quindi un percorso che l'azienda fa per avere una certificazione aggiuntiva specifica nell'attività di trasporto. Ma in più si inserisce proprio come valore aggiunto e come anche carta d'identità del trasportatore, in modo che tra trasportatori che condividono i carichi e che quindi ottimizzano la propria attività si può vedere questo identificativo di professionalità garantita e quindi essere sicuri che il trasportatore che io ho dall'altra parte non solo è stato identificato e diciamo monitorato per quella che è la sua attività, ma addirittura è stato certificato, e quindi c'è un ente certificatore che in questo caso è Fiservice, per cui è super partes rispetto all'attività degli associati, che entra nel merito dell'attività proprio per dare una certificazione aggiuntiva ed accrescere quindi la competitività dei soci. Sì, magistrali, voi a Timocom come l'avete risolto il problema del furto d'identità? Io mi spaccio per un altro, poi vado a caricare un 2000 prosciutti e me li porto da un'altra parte. Sì, diciamo, allora noi da questo punto di vista, questa, come diceva giustamente Manuel, è una prerogativa che ci contraddistingue, nel senso che la verifica dell'identità aziendale è proprio il primo passo che facciamo nel momento in cui un'azienda si propone a noi interessata a testare le nostre piattaforme. Quindi prima di abilitare l'accesso a questa nuova azienda, tutte le informazioni aziendali relative all'azienda vengono, diciamo così, finiscono da noi in una specie di scatola nera. Abbiamo un reparto appunto che si dedica solo alla verifica dei nuovi clienti, quindi noi richiediamo tutta una serie di documenti aziendali che ci devono essere forniti, quindi visure camerali eccetera eccetera. Sì, quindi non è che uno va sul sito internet e si iscrive e finita lì. Assolutamente no, chiaramente la richiesta avviene tramite principalmente attraverso online, tramite il nostro sito internet. Sì. Questo non significa che direttamente l'azienda ha accesso, quindi in questo senso chiunque potrebbe entrare. Ovviamente no, abbiamo una barriera, verifica di documentazione aziendale, facciamo una serie di controlli incrociati, ovviamente verifichiamo che i numeri telefonici siano effettivamente intestati all'azienda, eccetera. In più l'accesso alle nostre piattaforme non avviene tramite una user ID o una password, quindi potenzialmente potrei collegarmi da qualsiasi accesso internet, non importa dove. Per entrare sulle nostre piattaforme è necessario scaricare un piccolo software che quindi permette l'accesso solo dal quel PC, quindi noi siamo sicuri che nel momento in cui l'accesso, diciamo il software viene scaricato su un PC aziendale, da quell'accesso ci aspettiamo anche maggiore, che l'utilizzo sia dell'azienda. Sì, certo, maggiore garanzia. Quindi diciamo da un certo punto di vista, per problemi di sicurezza non è possibile ad esempio utilizzarlo da tablet e da smartphone, che potrebbe rendere molto più agevole e flessibile il servizio. Esatto, diciamo che questa è una delle, visto l'istanza di sicurezza, per noi, come l'ho detto, è la cosa più importante ad oggi. Ovviamente il mercato ci spinge a dare una certa risposta anche a quegli utenti che per comodità, come diceva, vorrebbero lavorare anche tramite smartphone o tablet. Sì. Sarà il nostro prossimo passo, in questo senso stiamo lavorando appunto ad alcune soluzioni che ci permettano da un lato da garantire appunto maggiore comodità e libertà di accesso ai nostri clienti, ma dall'altro senza perdere di vista l'istanza della sicurezza, della verifica dell'identità aziendale, che è appunto la cosa primaria. Senta, Frontera, per quanto riguarda il mercato italiano, questi sistemi sono diffusi o stiamo parlando ancora di pochi autotrasportatori che si sono evoluti in questa direzione? Beh, non solo sono diffusi, diciamo che sono anche un grosso aiuto, perché il mercato italiano rispetto ad altri mercati europei, ad esempio la Francia o la Germania, è un mercato estremamente frammentato. Cioè noi, Perfetto per il mercato italiano, quindi una cosa del genere. Esatto, è molto utile perché la frammentazione, quindi la tipicità italiana dell'artigianato, della piccola impresa, porta proprio ad avere un grande numero di aziende di trasporto, ma che in una gran parte, consideri che circa il 50% delle aziende di trasporto italiane ha tra 1 e 5 veicoli, quindi sono medio-piccole come attività, e quindi proprio per questo motivo hanno ancora di più necessità di avere contatti aggiuntivi per la propria attività. Senta, per rendere molto più efficiente il sistema bisognerebbe che ci fosse una unica borsa, non tante aziende che offrono tante borse. Sì, questo assolutamente nel sì. Nel mondo dei sogni. Non le nascondo che per noi, visto proprio che siamo cooperativa, l'obiettivo è proprio quello, cioè non legarci troppo a un'attività commerciale, ma rendere disponibilità di più servizi. Non solo tra borse carichi, che è un percorso un pochettino più difficile, ma che assolutamente è un'opportunità da percorrere, ma anche tra servizi, nel senso che l'avere un servizio di borsa carichi soltanto e semplicemente sulla propria postazione, senza integrarlo con altri servizi, rischia di essere più limitante per un'azienda di trasporto che invece ha una moltitudine di attività connesse. Per farle un esempio, l'integrazione principale che stiamo portando avanti e che sarà poi dopo il principale obiettivo da raggiungere è quello dell'integrazione con le tecnologie anche satellitari, e quindi fare in modo che la borsa carichi dall'ufficio si sposti fino al veicolo e si integri con la localizzazione satellitare, per cui aumentare anche, oltre alla comunicazione e alla connessione, anche la sicurezza del carico, in modo che il gestore della flotta possa avere tutto sotto controllo. Sì. Bene, io ringrazio sia Tommaso Magistrale di Timocom, responsabile per il mercato italiano. Grazie e buon lavoro, a presto. Grazie Enrico, a presto. E grazie anche a Manuel Frontera, che è responsabile marketing della cooperativa Fai Service. Grazie anche a lei, a presto e buon lavoro. Grazie, buona giornata. E questa intervista era in versione integrale nella nostra versione podcast, che è questa che state ascoltando, quindi un vantaggio per chi scarica il nostro file MP3 ogni settimana poco dopo il termine della nostra trasmissione. Questo è 2024, adesso chiudiamo questa puntata con un'anticipazione di quello che troviamo la domenica. Assieme al Sole 24 Ore c'è Nova, il settimanale di innovazione guidato da Luca De Biase. Luca, bentornato a 2024, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo come sempre dalla copertina. A che cosa è dedicata quella di domani? Beh, al grande mercato fenomeno delle app per gli smartphone e tablet, grandissimo nuovo mercato che cresce costantemente, dove le persone cominciano a domandarsi come sviluppare business in maniera più solida e forte, perché naturalmente la competizione lì è altrettanto grande di quanto sono grandi le opportunità. Un mercato internazionale così accessibile agli sviluppatori diventa anche un mercato sovraffollato di offerta. Esatto, e si dice che i veri soldi li facciano in pochi, in realtà. Li fanno in pochi, ne fanno tanti, e la questione è come fanno i produttori normali a costruire un modello significativo. A questo punto abbiamo capito che la grandissima parte dei consumatori non pagano l'app, ma sono disponibili quando all'interno di una situazione che si è creata utilizzando un'app gli vengono predisposte delle offerte all'interno dell'app. Quella è una modalità in-app purchase che comincia a essere studiata e realizzata in maniera piuttosto redditizia per molti e non soltanto per i grandissimi. E poi c'è il tema del native advertising, cioè la pubblicità fatta in modo tale che si innesti perfettamente all'interno delle pagine di queste app, e anche questo è un grande sviluppo per i modelli di business dei prossimi anni. Cioè per native advertising intendiamo non il semplice banner standard che gira ovunque, ma una cosa che è proprio disegnata ad hoc per quell'applicazione? Eh sì, appunto, perché qui il tema è la contestualizzazione, il fatto di avere delle pubblicità che non interrompano il lavoro che stai facendo con l'app, ma in qualche modo lo facilitano, addirittura lo arricchiscano. È possibile ed è una delle tendenze. Questo è molto interessante, sicuramente complicato ma molto interessante, quindi insomma, come dicevi, le opportunità sono molte ma non sono facili da carpire. Che cos'altro troveremo domani? Beh, domani il paginone è dedicato all'agenda digitale italiana e a quello che è stato fatto in questi mesi nel momento in cui cambia il governo, e dunque ci si domanda in che modo verrà portato avanti il progetto. L'agenda digitale è stata in questi mesi condotta dal commissario Francesco Caio verso la realizzazione di tre grandi progetti: l'anagrafe nazionale, la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione e l'identità digitale. Sono cose che meritano di essere approfondite, e lo abbiamo fatto nel paginone con la grande infografica di Nova della domenica e con i commenti degli esperti che in parte hanno partecipato, compreso due articoli di Francesco Caio stesso, uno su quello che è stato fatto e uno su quello che lui si aspetta debba essere fatto nella prossima fase politica. Per quanto mi riguarda, occorre pensare l'agenda digitale come un progetto di tutti gli italiani, non di questo o quel governo. È quello che ho scritto nel mio Crossroads, che leggerete domani, e che ho l'impressione debba diventare una consapevolezza profonda per questo paese. Esattamente, cambiano i governi, però l'agenda deve rimanere digitale e dovrebbe insomma diventare sempre più digitale. Certo. Quindi insomma, in bocca al lupo a tutti coloro che si dovranno occupare anche di agenda digitale. Luca, grazie, a presto. Grazie a tutti, ciao. E noi concludiamo questa puntata di 2024. Grazie per aver scaricato la nostra versione podcast. Io sono Enrico Pagliarini, potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Le email le vediamo io e Anita Panizza, che mi aiuta durante la settimana per mettere assieme i contenuti di 2024. Bene, continuate a scriverci anche per suggerirci temi o per qualsiasi altro motivo. Potete utilizzare anche Twitter, @e_Pagliarini, oppure la nostra pagina Facebook. Appuntamento alla prossima settimana, in radio il sabato nel pomeriggio tra le 15 e le 16, oppure la domenica alla sera tra le 23 e mezzanotte. Ho dimenticato di ricordare ai nostri ascoltatori, lo faccio solo nella versione podcast, che questa settimana, cioè la settimana che abbiamo appena passato, ha visto i festeggiamenti, chiamiamoli così, per la radio, perché il 13 di febbraio è stata la giornata mondiale della radio. E nonostante tutto quello che sta succedendo con l'avanzata di internet che si infila ovunque, la radio rimane, anche in Italia, comunque rimane nel mondo il mezzo di comunicazione più utilizzato e più diffuso. No, sull'Italia no, non è vero, perché è la TV. Ci sono solo purtroppo 35 milioni di persone che ogni giorno ascoltano la radio, ce ne sono di più che guardano la TV, purtroppo. Però sono sicuramente meno le persone che, anche qui direi purtroppo, ma per un altro motivo, che utilizzano internet. Nel mondo invece, se noi guardiamo i tassi di diffusione e vaste aree del mondo dove la radio è l'unico mezzo di comunicazione, la radio nel mondo è ancora oggi il mezzo di comunicazione più diffuso. Parleremo presto della evoluzione della radio, che in Italia equivale anche in buona parte ad un affiancamento dell'FM con il digitale terrestre radiofonico, quindi una serie di frequenze, una rete nuova digitale, servono ricevitori che sono in grado di ricevere i segnali della digital radio, conosciuti tecnicamente come DAB Plus. Abbiamo coperto già una vasta area del nord Italia e anche tutta la dorsale autostradale che va da Bolzano fino a Roma. Comunque parleremo presto anche di questo, perché sicuramente questa è un'evoluzione molto importante, molto interessante. Bene, noi chiudiamo questa puntata, la nostra serranda si risolleva la prossima settimana. Grazie a tutti per l'ascolto e un buon ascolto con i nostri programmi. 2024.